Italia in controluce. Sono storie di cronaca che fanno paura, altre che fanno sorridere, altre ancora che possono perfino cambiare la vita. Sono le storie raccontate, narrate ogni giorno da Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 condotto da Daniele Biacchessi. Danilo Restivo, arrestato in Gran Bretagna per l'omicidio della sua dirimpettaia, la sarta 48enne Heather Barnett, è accusato in Italia per la morte della studentessa Elisa Claps. Per lui i magistrati di Salerno hanno spiccato da tempo un mandato di arresto europeo, ma al momento non è stato ancora eseguito. L'ultima udienza davanti al tribunale inglese responsabile per i casi di estradizione è stato aggiornato, una procedura che potrà essere ripetuta ogni 28 giorni. Gennaro Grimolizzi ha intervistato l'avvocato italo-inglese Giovanni Di Stefano. Se trasferito in Italia, Danilo Restivo rischia di fare la fine di Michele Sindona. Non usa mezzi termini l'avvocato Giovanni Di Stefano, difensore di Omar Benguit, accusato dell'omicidio della studentessa sudcoreana Oh Ki-shin e per questo in carcere in Inghilterra dal 2002. Dalla richiesta di Di Stefano dell'apertura del caso di Oh Ki-shin è scattato l'arresto il 19 maggio scorso di Danilo Restivo, accusato di un altro omicidio, quello della sarta Heather Barnett. L'avvocato italo-inglese è convinto che ad uccidere Oh Ki-shin sia stato proprio Restivo, nei confronti del quale dalla procura di Salerno è partito un mandato d'arresto europeo per l'uccisione di Elisa Claps, ritrovata cadavere nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Io temo che Restivo, se metti piede in Italia, in carcere italiana, verrà ucciso. In Inghilterra non c'è problema, lui sta a Winchester Prison, il carcere di Winchester, non ci sono problemi, ma in Italia c'è il rischio che succederà a lui quello che è successo a Sindona, per gli stessi motivi. In riferimento all'omicidio di Elisa Claps, secondo l'avvocato Di Stefano, quello dei tempi per interrogare Restivo in seguito al mandato d'arresto europeo è un falso problema. L'autorità giudiziaria italiana può sentire Restivo in Inghilterra in qualsiasi momento, senza attendere la fine del processo per l'omicidio della signora Barnett. Nelle carceri di Sua Maestà Restivo non corre pericoli, in Italia invece non sarebbe al sicuro. Avendo finito, completato il processo di Heather Barnett o di tutti i reati inglesi, allora è il momento in cui l'Italia può chiedere, noi lo vogliamo qui, però questa è tutta una assurdità, perché se vogliono un interrogatorio di garanzia lo possono fare in Inghilterra tranquillamente, le regole ci sono, le direttive europee ci sono, in cui una persona, il magistrato, può andare in Inghilterra, il magistrato va in Svizzera, in Portogallo, vanno in tutte le parti del mondo, perché non possono andare in carcere di Winchester dove lui è, ci sta, e fanno un interrogatorio di garanzia lì. Non serve un'estradizione, lui è mille volte più sicuro in Inghilterra. Se vogliamo un processo in Italia, lui deve rimanere in Inghilterra, che in Italia c'è grave pericolo, gravissimo pericolo, non dei carcerati che stanno in carcere, ma delle persone che l'hanno protetto, perché questo è un ragazzo che è stato protetto. E lo dico io, e se c'è qualcuno che mi vuole scontrare con me in aula per diffamazione, cosa di che lo fa gentilmente, perché gli elementi ci sono. Se Restivo fosse stato fermato in tempo in Italia, forse si sarebbe impedita una scia di sangue che rischia di essere più lunga di quello che si immagina. Che hanno fatto l'Italia in 17 anni, gentilmente? Come è stato permesso a questa ragazza di andare fuori Italia quando c'erano almeno 3 omicidi che la procura lo stava seguendo? Ma mi fai capire che se ci vogliono prendere veramente a noi in giro, sto qui. No, adesso lui si trova lì. Quando è finito il processo inglese, lui può fare un processo italiano, oppure, meglio ancora, visto che lui è italiano, in base alle regole europee, direttiva europea, lui può scontare la pena in Italia. Non so se la finisce tutto prima che lo fanno fuori, ma c'è un grave pericolo lì. E questo è la base in cui io e la Procura della Repubblica abbiamo abbiamo opposto a qualsiasi temporaneo estradizione. Dallo studio inglese di Di Stefano è partita anche una lettera al ministro della giustizia Angelino Alfano per avere chiarimenti sulla vicenda Claps. Voglio un'inchiesta in base a che sta succedendo in Italia. Noi vogliamo un'inchiesta come questo ragazzo è stato protetto. Chi l'ha protetto? Chi ha detto questo? Noi ci abbiamo le prove che due questore hanno dato dichiarazione in momenti punti chiavi, dicendo che la Claps era andato lì, si può essere cosa motivo romantico, può essere hanno visto in Africa. Questi sono due guardasigilli che hanno dato immediatamente dichiarazione che più o meno exculpatory di Restivo, ma o l'hanno fatto apposta o no, purtroppo hanno dato il spazio libero a questo ragazzo di uccidere di nuovo, e questo per me è inaccettabile. Il guardasigilli non ha ancora risposto, ma una cosa è certa: coperture di insabbiamenti hanno impedito fino ad ora di far luce anche sull'omicidio di Elisa Claps. Italia in controluce. Rischiano di chiudere 20 case famiglie di Roma. I fondi regionali e comunali sono infatti inadeguati per l'assistenza. È la denuncia del responsabile di Casa al Plurale, Luigi Vittorio Belliri, presidente di una cooperativa sociale che gestisce due case famiglia per minori e due per disabili e che rappresenta altre 16 altre strutture. Lo ha intervistato Valentina Furlanetto. Arrivano meno soldi di quelli che si spendono per pagare il personale, il mangiare, l'affitto e tutto quello che serve per gestire una casa famiglia. Da quanto tempo va avanti tutto questo? C'è stato in quest'ultimo anno un aumento del 10% dei costi del lavoro e il costo della vita, eccetera. A fronte di questo nessun aumento da parte del Comune di Roma, neanche di un centesimo. Quindi cosa fate? Tagliate sul cibo? Allora guardi, abbiamo messo in piedi una serie di azioni per cercare di ripianare questa cosa. La primissima è quella di protestare con il Comune nel fargli presente che c'è un problema gravissimo. La mia cooperativa ha chiuso con un disavanzo di 110.000 euro, che non sono pochi. La seconda azione è quella di ridurre il più possibile il personale, ma nei limiti, nel senso che mica possiamo lasciarli da soli. Mentre se il Comune decide un taglio sull'assistenza domiciliare, invece che 5 ore uno assiste una persona per 4 ore, in questo caso, e l'altra ora il ragazzo dove sta? Sta sempre con noi, sempre in casa, non è che lo puoi lasciare da solo. Sto parlando di persone che devono essere lavate, vestite, imboccate, hanno bisogno dell'assistenza primaria per fare la doccia, per andare al bagno, di tutto. Non posso mica lasciarle da sole. Sarebbe abbandono di incapace, cioè andrei in galera un minuto dopo, ma giustamente andrei in galera, cioè mi presenterei io spontaneamente ai carabinieri dicendo arrestatemi. È un problema che riguarda soltanto le sue case famiglia, no, o anche io sono altri. Il presidente di un'associazione che si chiama Casa al Plurale, che è un'associazione di secondo livello che raggruppa 20 tra le più belle case famiglie di Roma. A Roma ce ne sono 54 in tutto per disabili, e tutti quanti insieme stiamo dicendo al Comune di Roma la stessa identica cosa. Caro Comune di Roma, c'è stato un aumento contrattuale, sono gli aumenti dell'Istat, e non ti sei mai preoccupato di adeguare i finanziamenti a questi aumenti. E ci dica il Comune come dobbiamo spendere quei pochi soldi che ci dà. Ad esempio di dirci da domani i ragazzi non devono più mangiare, oppure la domenica e il sabato li lasciate da soli dentro casa, oppure il lunedì mattina e il martedì pomeriggio non mettete nessun operatore e li lasciate soli. Io non vi do i soldi per farlo, e quindi se nessuno li paga, chiaramente restano da soli. Il rischio estremo, sempre estremizzando, è che questi minori rimangano, che voi dobbiate chiudere, che loro rimangano su una strada? Esattamente, il rischio è esattamente questo. Se entro febbraio non dovessero arrivare questi aumenti, il rischio è di tornare in Campidoglio con le persone disabili e dire al sindaco: signor sindaco, siccome il responsabile della nostra città sei tu, rieccoti indietro le persone che ci hai affidato. Ti dico, guarda, allora Alessandro, bisogna di fare la doccia il martedì, il mercoledì pomeriggio, in questo modo, tenendo da due operatori. Miriam ha bisogno di essere alimentata con un'alimentazione esterna dalla parenterale, va medicata la piaga da decubito tutte quante le sere prima che vada a dormire. Brunella ha l'abitudine di fare questo. Io spiegherò per tutti i 12 ragazzi quali sono le abitudini che hanno. Dopodiché il sindaco se li prenderà, se li porterà a casa e ci baderà lui. Sto di nuovo ovviamente lanciando una provocazione. Invece che una provocazione, ho lanciato una proposta al sindaco di Roma e l'ho resa pubblica attraverso la stampa, l'ho pubblicata. Gli ho scritto una lettera dicendo: caro sindaco, fermiamo alla costruzione del centro congressi, la Nuvola di Fuxas, un centro congressi, devo dire meraviglioso, molto bello, che costa alla città 280 milioni di euro. Caro sindaco, prendi il 2%, 5 milioni di euro, e destinali alle case famiglia, perché in una città accogliente, bella, qual è la capitale d'Italia, prima vengono i disabili, i diseredati, i poveri, le persone in difficoltà, e dopo viene il centro congressi. Se lei a un certo momento si trova che non ha più i soldi, decide di andare in vacanza o di dare da mangiare ai suoi figli. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. www.radio24.it è il sito dove potete trovare, scaricare e ascoltare tutte le puntate di questo programma domani alle 6.30 su Radio 24.